Posizionatevi ai due lati dello schermo. Per remare, trascinate il dito dall'alto verso il basso, mantenendo un ritmo costante che vi verrà suggerito da un suono guida.